Milano, da Roberta Frisani in regia. È stata dunque una fumata nera quella sui Corona Bond. Dopo un vertice di oltre 6 ore, il veto posto dall'Italia sul testo delle conclusioni, i 27 leader UE decidono di darsi altre 2 settimane per mettere a punto la nuova strategia anticrisi. Sul tavolo c'è tutto e niente allo stesso tempo. La dichiarazione comune non cita il MES, che l'Italia ha fatto rimuovere, né uno strumento di debito comune. Insomma, il confronto proseguirà, prosegue e proseguirà nei prossimi giorni. Non si esclude nulla, ma riparte di fatto esattamente da dove era iniziato. Eppure, questa è stata una settimana importante, perché tra lacerazioni, allarmi, allerta, insomma, ci porta probabilmente verso una zona di cambiamento per l'Unione, per il modo in cui è chiamata ad affrontare certe emergenze. Naturalmente quella attuale non era prevedibile, ma tant'è, le cose accadono. Allora abbiamo chiesto una mano ad Antonio Villafranca, ricercatore dell'ISPI, grazie di essere con noi intanto. Grazie a voi. Allora, le chiedo l'aiuto proprio, come dire, appunti. Che cosa ha cercato di fare Conte nei giorni che hanno preceduto appunto il vertice di giovedì? Ha cercato di un coordinamento delle politiche fiscali da parte degli Stati membri, nella convinzione che quello che è stato fatto in ambito europeo finora è già qualcosa, soprattutto da parte della Banca Centrale Europea. C'è stato un primo scivolone, come sappiamo, da parte di Christine Lagarde, ma poi effettivamente con una potenza di fuoco di oltre 1.000 miliardi col programma di acquisto di titoli pubblici e privati, qualcosa è stato fatto, ma non basta. Non basta, perché rispetto a una crisi di questo tipo, che potrebbe costare nel primo semestre dell'anno tra il 15 e il 22% del PIL in Europa, bisogna ovviamente far di più, quindi mobilizzare i bilanci nazionali. Ma quando, siccome ciascuno Stato già ha un debito molto alto, il rischio ovviamente è che si inneschino in vari Stati, e purtroppo direi a partire dall'Italia, dato il nostro altissimo debito pubblico, si inneschino appunto delle crisi finanziarie. E questo è nell'interesse di tutta l'Europa. Allora Conte chiedeva una risposta europea, l'attivazione di meccanismi appunto da parte dell'Unione Europea. Ecco, dottor Villafranca, perché proprio adesso? Cioè, lei dice che sostanzialmente questo accade perché la crisi è talmente clamorosa nella sua portata e nel suo potenziale che questo era il momento di battere un colpo? Beh, questo è il momento di iniziare a costruire degli strumenti o a cambiare degli strumenti già esistenti in modo che possano funzionare per una possibile crisi appunto economica e finanziaria che dovesse colpire l'Eurozona, e se non ora, quando? In che maniera si costruisce, o meglio, in che maniera secondo lei Conte ha costruito un sostegno diplomatico? Perché parliamoci chiari, sappiamo che come in tutte le famiglie quella europea è ben divisa, e quando si tratta di fatto di quattrini di finanza forse lo è ancora di più. Oddio, non che quando si parli di immigrazione la cosa migliori molto. Ma allora, come ha lavorato Conte secondo lei sul fronte diplomatico? Sul fronte diplomatico ha trovato e ha cercato l'appoggio di quei paesi che ovviamente rischiano di più insieme all'Italia, che sono ovviamente la Spagna, che sono la Grecia, ma che è anche la Francia di Macron. La Francia ha un rapporto debito-PIL del 100% quasi, noi siamo oltre il 134%, però anche la Francia rischia, e da qui ecco che il lavoro diplomatico proprio di Conte è stato quello di trovare, soprattutto nei paesi mediterranei, nei paesi del sud dell'Unione Europea, un appoggio che ha trovato, ma ha trovato anche dall'altro lato il fronte dei paesi del nord, con a capo la Germania, ma il muro, la Germania, che ovviamente ha fatto muro. Ecco, quelli che no, potremmo titolare. Dunque lei ha subito citato la Germania, pensiamo alla Finlandia, all'Olanda. E cosa vogliono, o meglio, cosa non vogliono che accada in quella che poi è la gestione comune di una moneta comune e unica? Quello che loro sicuramente non vogliono è la mutualizzazione dei debiti, cioè il fatto che i debiti pubblici di tutti i paesi europei vengano appunto poi, abbiano una garanzia da parte di tutti i paesi europei. Essenzialmente i tedeschi non vogliono mettere mano eventualmente ai loro portafogli perché stanno garantendo un debito pubblico italiano o francese o anche... E Conte è arrivato a chiedere a questo perché non appare ragionevole. Ma in realtà appunto Conte non ha detto che vuole una mutualizzazione dei debiti, anche perché sappiamo che siamo lontanissimi ovviamente da una ipotesi di questo tipo. Ha detto soltanto che di fronte a una crisi del genere è necessario ovviamente che gli Stati membri aumentino appunto il loro indebitamento e che ci sia da parte dell'Unione Europea un'istituzione o un meccanismo che possa andare sul mercato a reperire questi fondi, emettendo ovviamente dei titoli, magari al posto degli stati che altrimenti dovrebbero farlo pagando degli interessi molto, molto più alti. Ecco, dottor Villafranco, un'altra domanda sempre su questo gruppo, perché sennò si finisce per fare appunto del facile populismo, il nord contro il sud. In questo nord, in questa squadra del nord, poi magari riflettiamo un attimo su quella del sud, sono tutti ugualmente contrari? Ci sono posizioni, sfumature, riflessioni diverse? Ma in realtà la sfumatura più grande c'è proprio in Germania. La Merkel ha detto no ai cosiddetti Covid bonds, quindi proprio a un'emissione di titoli finalizzato proprio a finanziare poi i singoli paesi membri, ma ha lasciato qualche spiraglio in merito all'utilizzo del fondo salva stati. È evidente che se noi parliamo di quelli del nord parliamo anche di paesi relativamente piccoli, a fare la differenza non potrà che essere la posizione tedesca. Se poi alla fine si trova la quadra con la Germania, difficilmente poi gli altri paesi del nord si metteranno veramente di traverso. Il lavoro dunque di Conte, lei prima ci dava dei dettagli sul lavoro diplomatico, si concentra inevitabilmente nel rapporto con Angela Merkel. Beh, questo è fondamentale, ma anche nel lavoro di sponda direi con Macron. È evidente che in questo momento la Francia ha un interesse convergente col nostro e anche, lo sappiamo benissimo, ha un dialogo aperto e continuo con la Merkel, e quindi in contemporanea Conte deve cercare di far massa con i paesi del sud dell'Unione Europea, coinvolgendo anche Sanchez, coinvolgendo anche altri paesi del sud, ma deve anche appunto poi far sponda proprio con Macron perché possa effettivamente cercare di convincere anche la Merkel. Quelli del nord, dottor Villafranca, sono egoisti? Ma io non la metterei sinceramente da questo punto di vista, perché dobbiamo riconoscere, seppur con un impatto diverso, che il coronavirus sta dilagando in tutta Europa e ciascuno in questo momento ovviamente sta guardando anche a quello che succede all'interno del proprio paese e ai tanti miliardi necessari ovviamente per affrontare l'emergenza sanitaria e anche ovviamente le conseguenze di tipo economico. Il problema noi dobbiamo forse anche, superata soprattutto questa fase di crisi, ricondurlo al nostro paese. Noi vogliamo veramente continuare ad avere un paese che ha un debito pubblico così alto? Vogliamo non riconoscere che fuori dall'emergenza coronavirus, in cui è giusto ovviamente spendere, il debito pubblico al 134% del PIL è il grande problema del nostro paese? Perché ogni volta che appunto succede qualcosa a livello internazionale, il nostro paese è quello che traballa di più, perché siamo fortemente indebitati. Credo che prima ci accorgiamo appunto di questo, meno saremo poi soggetti agli egoismi degli altri. Mi dica, c'è la tentazione a suo avviso di un politico, e parlo di una tentazione davvero quasi genetica, insomma il politico ha delle responsabilità di brevissimo termine, di rimandare, insomma lei ha fatto una riflessione che credo i nostri ascoltatori non potranno che condividere, non possiamo comunque in un momento di difficoltà, però si dice ok, però in questo momento di difficoltà fammi la cortesia e andiamo oltre. C'è questo rischio da parte della politica italiana? Ma di andare oltre da che punto di vista? Di utilizzare il momento di crisi per saltare, scardinare quell'idea appunto che il nostro debito sia un problema italiano essenzialmente, non un problema europeo o del mondo, e che quindi si debba intervenire seriamente sul debito. Beh, certamente. certamente appunto non in questo momento, perché in questo momento l'intervento fondamentale è quello sanitario e bisogna utilizzare anche a debito appunto le risorse necessarie. Si possono unire queste due esigenze, cioè distinguere il momento dalla prospettiva in chiave europea? Guardi, il nostro debito pubblico è oltre 2.000 miliardi di euro, non possiamo certamente credere che anche superata l'emergenza coronavirus in un anno risolviamo il problema. È necessario fare un piano a 10 anni, 15 anni, l'Unione Europea dice a 20 anni appunto, di continua riduzione del debito, ma perché è nel nostro interesse nazionale, questa è la cosa. Faccio solo un piccolo esempio, quando ad esempio succedono gli scontri in Catalogna, lo spread italiano aumenta più di quello spagnolo e noi obiettivamente non abbiamo nulla a che fare ovviamente con una crisi interna alla Spagna. Perché aumenta di più? Perché chi ci presta i soldi essenzialmente è preoccupato di una instabilità in Europa che va ovviamente a toccare soprattutto i paesi più indebitati e quindi ovviamente l'Italia. Ecco, è proprio nell'interesse nazionale porre la questione forte del debito pubblico quando ovviamente l'emergenza coronavirus sarà superata. Ottimo esempio, mi fa pensare che è un po' come quando arriva un virus in una comunità, indipendentemente dal nostro volere, c'è, come dire, viene colpito il più debole, e questo non è una scelta, ma è quasi un, anzi lo è, un passaggio, diciamo, darwiniano. In conclusione, una battuta, l'esito di questo vertice va considerato un passo in quale direzione? Va soltanto considerata nella direzione tipica dell'Unione Europea, quando non si riesce a prendere alcuna decisione si acquista tempo. Si è detto entro 2 settimane bisognerà venire fuori con delle idee nuove e quindi si è acquistato tempo e soltanto in questo modo lo possiamo leggere, ci vuole appunto più tempo. Il lavoro insomma continua. Grazie ad Antonio Villafranca, ricercatore dell'ISPI, per averci aiutato a capire questa importante settimana e di fatto per aver anticipato che questo lavoro, appunto questa riflessione, andrà avanti. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Adesso sentiamo insieme gli aggiornamenti per Chi è in Viaggio e poi torniamo per la seconda parte. Europa, Europa. Bentornati da Gigi Donnelli all'appuntamento con Europa, Europa. Parliamo adesso di ricerca. Tutti la vogliono adesso, ma di solito, di norma, quasi nessuno se la fila. È esattamente il senso della ricerca. Non serve mentre la fai, serve quando l'hai completata, quando produce dei risultati, quando offre risposte a dei problemi. E dunque bisogna farla sempre, possibilmente tanto, proprio per arrivare a questi punti fermi. Silvia Bernardi ne ha parlato con uno dei massimi esperti italiani, il dottor Giuseppe Remuzzi, specialista tra l'altro nella ricerca sui farmaci. Ci è voluta una pandemia perché la scienza ottenesse attenzione a livello diffuso. Ci è voluto il coronavirus perché la ricerca entrasse nelle conversazioni quotidiane, negli studi televisivi, perché la qualità dei ricercatori italiani trovasse spazio tra le righe dei quotidiani, arrivando a conquistare più di qualche titolo. Quello della scienza e della ricerca scientifica è un quadro in chiaroscuro. Scorrendo le pagine dell'annuario di Scienza, Tecnologia e Società appena pubblicato dal Mulino e curato dal Centro Studi Observa Science in Society, per fotografare la cultura scientifica e la sua percezione pubblica, si trovano indicatori poco incoraggianti. In Europa siamo al 13° posto per numero di laureati e dottorati nelle discipline scientifiche, con una prevalenza degli anziani tra i docenti universitari. Nessuna istituzione italiana compare tra le prime 10 che beneficiano dei finanziamenti del programma europeo Horizon 2020. Eppure oggi, in piena emergenza, ricerca, ricerca, ricerca sono le tre parole che possono portarci fuori dall'emergenza. Lo sta ripetendo da giorni, settimane, Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Da giorni, settimane, come i colleghi, non si ferma un attimo se non per lanciare un messaggio: la cura ci sarà, ci siamo vicini, ma il monito è sempre lo stesso: ricerca, ricerca, ricerca. È la cosa fondamentale, perché adesso cosa succede? Adesso succede che tutti vogliono portare le mascherine, i vestiti, i ventilatori, benissimo. A un certo punto i nuovi infetti continueranno a diminuire finché non avremo più la crescita di nuovi infetti. A un bel momento le persone nelle terapie intensive o guariranno o moriranno e cominceranno a liberarsi dei posti nelle terapie intensive. Ma la malattia continuerà per mesi, potrebbe tornare anche l'anno 21. Allora adesso quello di cui c'è veramente bisogno è investire in ricerca per capire che cos'ha questa polmonite di diverso da tutte le altre polmonite interstiziali che siamo abituati a vedere. Quando noi abbiamo capito perché questa polmonite è così drammatica e perché è così difficile fare arrivare l'ossigeno dai bronchi al sangue, allora noi lo sapremo curare, e secondo me la sapremo curare con qualche farmaco che c'è già. Una chiamata per tutti i ricercatori, quindi, che non sempre hanno vita facile, soprattutto in Italia, dove per la ricerca ci sono meno soldi che altrove. Lo ricordiamo, l'investimento pubblico del nostro paese nella ricerca è dell'1,4% del PIL. Questo è il momento della ricerca ed è anche il momento in cui i ricercatori italiani, che hanno sempre detto di essere i più bravi del mondo, devono mettersi insieme e dimostrarlo, sia quelli che sono all'estero, che hanno la fortuna di essere all'estero perché hanno più soldi, sa, andare all'estero è facile, e dopo dicono che i nostri quando sono all'estero sono i più bravi di tutti, è vero. C'è anche da dire che se uno va all'estero in un grande gruppo ha successo di sicuro, perché gli italiani sono bravi, i soldi ci sono, non sono un problema, e l'ambiente è molto favorevole perché tutte le cose ci stanno in tempo reale. Dobbiamo far vedere che noi tutti insieme siamo meglio del virus. Per fare ricerca, professore, servono investimenti, e la politica italiana negli ultimi 15 anni non è stata dalla parte del progresso scientifico. Schieramenti di destra e sinistra hanno condizionato pesantemente decisioni importanti in medicina e bioetica. Che cosa ci deve insegnare questa situazione? Ci insegna tutto. Guardi, mi viene da piangere. Questa strage ci insegna tantissime cose, a partire dal Servizio Sanitario Nazionale. Cosa dicevamo prima di cui avremmo avuto bisogno e cosa è stato documentato adesso che abbiamo bisogno. Sono esattamente le cose che avevamo detto per anni, avremmo bisogno di questo. Sulla ricerca ci insegna che è la cosa più importante per il nostro paese. L'economia viene dopo. Se noi non stiamo bene non funziona l'economia. L'economia è importantissima, il PIL è fondamentale, il debito pubblico, non si può fare a meno di avere un debito pubblico ragionevole. Ma tutte queste cose si fanno attraverso gli uomini. L'economia riprende sulle gambe degli uomini che si sono malati. E questo virus paradossalmente ti paralizza le gambe in un certo senso, non riesci a alzarti dal letto, non puoi far camminare l'economia. Quando mai lei ha visto un politico che va a conoscere i ricercatori? È venuto il capo dello Stato da noi, è rimasto molto colpito e ne ha parlato poi in altre occasioni. È importante questa cosa, perché se i politici vanno a conoscere i ricercatori, sanno dove vanno a finire i soldi. Ci voleva allora una pandemia per portare la scienza sotto la giusta attenzione. Quando si risolverà? La lezione sarà servita? Io temo che si ritornerà come prima, perché noi purtroppo siamo un paese che non prende le lezioni dal passato. Dobbiamo continuare a parlarne, e questo slogan dovrebbe diventare una cosa davvero virale. E allora uniti ce la faremo, ma non senza ricerca, ricerca, ricerca. Grazie a Silvia Bernardi. E adesso cambiamo argomento. L'Italia lo scorso anno, con la Lombardia capofila, è cresciuta più della media dei paesi europei nelle richieste di brevetti allo European Patent Office. Le domande di brevetti, inoltrate appunto ad EPO, questo è l'acronimo dell'ufficio, inoltrate dalle società, dagli inventori italiani nel 2019, sono aumentate dell'1,2%, una crescita consolidata per il quinto anno consecutivo, 22% il totale in 5 anni. La Lombardia scala la classifica delle regioni più innovative, trainano il settore dei trasporti, delle macchine speciali, le tecnologie digitali per il maggior numero di richieste di brevetti europei. Lo spiega e la sentiamo Roberto Romano, responsabile del settore Life Science, al microfono di Anna Marino. L'Italia ancora per quest'anno, nel 2019, conferma una buona performance, infatti è cresciuta dell'1,2% nel 2019 rispetto all'anno precedente, registrando così una performance migliore appunto sia rispetto all'anno precedente dell'1%, sia rispetto alla media europea dei 28 paesi dell'Unione Europea, che hanno aumentato dello 0,9%. importante sottolineare che l'Italia nella top 50 è al decimo posto come numero di richieste di brevetto all'Ufficio Brevetto Europeo, e la Lombardia in particolare scala le classifiche delle prime regioni europee, rappresenta la posizione numero 12 delle regioni europee nella nostra classifica, un aumento del 6,2% nel numero di richieste. Quali sono stati i settori che sono stati maggiormente innovativi in Italia e in Lombardia? Il settore dei trasporti, come quello con il maggior numero di domande, per il secondo anno consecutivo il primo settore tecnologico per le imprese italiane. Rappresenta il 4% di tutte le richieste inerenti ai trasporti all'Ufficio Brevetti Europeo e si posiziona al terzo posto dopo la Germania e la Francia. Importante sottolineare che la tecnologia attribuibile a altri macchinari speciali è cresciuta molto l'anno scorso, ha avuto un 23,9% di crescita. È un'area che copre tutta la gamma di tecnologie, per esempio macchine utensili, stampanti 3D. La Lombardia cresce anche nella quota parte di tutte le domande italiane, quindi l'anno scorso abbiamo registrato un 31,9% e quest'anno notiamo una crescita al 33,5%. Gigi Donelli, Alessandro Schirano, vi ringraziano, vi danno appuntamento alla prossima settimana. Grazie anche a Roberta Frisani in regia. È tutto per adesso, GR24 subito come sempre, e qui in questo spazio europeo ci risentiamo la prossima settimana.